qui quanto durerebbe? Poi è una chiacchierata e di conseguenza si va in ci porta la chiacchiera, ecco. Quindi sì. Voi con il computer riuscite con... Sì, sì, web, tutto web e radio. Web e radio, Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, come sempre trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi e come sempre ringraziando Stefano Neri per la concessione gentilissima di questi spazi. Fumino, questa sera abbiamo un ospite speciale, un ex sindaco di Montevarchi, quindi insomma una autorità, quantomeno ex autorità, ma comunque sempre autorità della città. Chi è? Presentacelo. Buonasera a tutti anche da parte mia, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Stasera in effetti, Julian, abbiamo un ospite molto particolare perché nella sua vita ha ricoperto e sta ricoprendo comunque ancora dei ruoli sostanzialmente molto importanti all'interno della comunità, ma addirittura ha vestito i colori del rosso-blu del Montevarchi in età giovanile. E quindi non è un montevarchino di nascita, ci è arrivato ad una certa età, ma questo ce lo racconterà lui. Bando alle ciance, benvenuto e grazie di essere presente ai nostri microfoni a Francesco Maria Grasso. Buonasera e grazie dell'invito e grazie di essere in questa, diciamo, proprio chiacchierata detta la montevarchina, nella quale tra un gruppo di amici, ma c'è la possibilità anche di colloquiare, di rappresentare anche esperienze, soprattutto ricordi, diciamo, in questi 50 anni di vita a Montevarchi. Bene Francesco, prima di farti la prima domanda ringrazio il nostro regista che è Gabriele Salvatore per stasera e rispetto a te, appunto, dicevi i tuoi 50 anni di vita a Montevarchi. Allora, te sei arrivato a Montevarchi e qual è stato il primo incontro con il calcio, con l'Aquila? Come è scoppiata la passione per il calcio cittadino e per lo sport cittadino? No, io ero bambino, quindi sono venuto a Montevarchi, avevo 3 anni sostanzialmente. Però dopo un paio d'anni, poi sono ritornato, che mia madre è di Siena, quindi sono ritornato a Siena, sono ritornato un anno. Quando sono tornato per seconda elementare si andava a giocare in Piazza della Repubblica sostanzialmente, o si andava alla Gilde. Giochicchiavo bene, era abbastanza sicchino, snello, però con la palla giocavo, scattavo, si faceva come si faceva allora, a porticine in piazza dove ancora il settore asfaltato, Piazza della Repubblica. E poi alla Gilde un giorno, non me lo ricordo neanche se era un sabato o un venerdì, allora faceva l'osservatore, ma insomma era conosciuto da tutti, i Francini, quel signore sarà stato 1,95 m, quindi mi vide giocare e mi disse che il giorno dopo potevo venire perché mi faceva piacere se facevo una partita con i ragazzi del Montevarchi Calcio. E quindi la mattina io andai, mi ricordo c'era Losi, allora ancora c'era i Babacci, quindi Vasco, il fratello che rappresentava e che coordinava tutta anche la Juniores, e quindi fece una partita e quindi videro, diciamo, che i piedi c'erano e iniziò quindi la storia dal punto di vista calcistico, che però, ecco, è una storia che è socialità di Montevarchi, non era tanto per giocare o per fare bravi, ecco. Ci si allenava la domenica mattina, perché sostanzialmente se erano ragazzi, dunque mi ricordo era l'anno nel quale si fece lo spareggio a Firenze con la Pistoiese. Mi 70? Sempre. 70 l'anno prima, che poi mi ricordo il gol di Scarpa e quindi l'anno in cui poi si incominciò davvero a frequentare quasi tutti i giorni, insomma, ecco, il Campetto oppure la Piazza della Repubblica o quello si poteva fare allo stadio. Fu l'anno principalmente, ecco, della vittoria e dello spareggio, ecco, e da allora iniziò un minimo di di presenza insieme a tutti i ragazzi dell'annata del 60, perché me lo ricordo sempre, ora ci dicono 16 di 60, quindi siamo un po' vecchiotti, loro ci dicevano del 60, se era ragazzi, se era le speranze del futuro. Ecco, l'annata del 60, ancora che no, a me mi è rimasto in testa, sei del 60, quindi come vuol dire, sei giovane, sei, ecco, le speranze di Montevarchi, ecco. In effetti c'è sempre da guardare ai giovani, perché il futuro è di loro, è dei giovani, e man mano che il tempo passa siamo stati giovani tutti, adesso siamo tutti un po' meno giovani, c'è da lasciare il passo in effetti, perché comunque il futuro è comunque dei giovani sempre. Però una domanda che mi viene da farti rispetto alla Montevarchi che era negli anni 70 più o meno, o poco dopo, tu hai fatto tutta la trafila delle giovanili a Montevarchi per poi avere addirittura esperienze comunque in altre squadre, però di prime squadre. Ma il rapporto che c'era ad esempio con i giovani allora, da parte della società, da parte degli allenatori, degli insegnanti di calcio sostanzialmente a quell'età, rispetto ad oggi, quanto lo vedi cambiato, quanto lo vedi diverso, e secondo te c'è qualcosa di più o qualcosa di meno? Allora era molto più volontariato, nel senso che ora c'è un po' più di persone anche, diciamo, con maggiore professionalità e destinate anche ad gestire in maniera leggermente più programmata, ecco, anche più specializzata il settore giovanile. Allora c'erano delle persone di volontariato proprio massimo, nel senso che, ecco, io mi lamentavo la domenica mattina, noi si faceva allenamento la mattina dalle 8 alle 11, la domenica mattina d'inverno con pantaloncini corti e con la canottierina, cioè il freddo alle gambe, solo per spogliarsi, il freddo era dirompente lì alla Cile, ecco. E nello stesso tempo, già facendo nomi, c'erano persone che erano state delle buone individualità e anche dei grandi giocatori in età giovanile. Ad esempio, il coordinatore delle giovanili era Mario Semoli, che credo aveva militato nelle alte serie, insomma, quindi persona squisita. I fratelli Babacci, che pur avendo giocato in tante categorie, poi naturalmente in quella fase erano al limite del pensionamento, insomma, comunque chi faceva il muratore o cioè durante la settimana lavoravano, e quindi, ecco, lo stesso a noi ci allenava anche Moretti, falegname, faceva lì in via Fonte Moschetta, se non sbaglio, c'aveva anche non solo il negozio, il laboratorio sostanzialmente, ecco. Quindi tutte persone che facevano un secondo lavoro, che erano molto disponibili e che poi alla fine si andava con le macchine loro anche a giocare, quindi, ecco, era un mondo di 30 anni fa, 40 anni fa, nella quale però ci si divertiva e c'era grande passione. La società era una società molto disponibile, perché dal presidente, vi dicevo, che veniva a volte, ci portava anche a giocare, o comunque veniva sempre a vederci, ci faceva sentire vivi, insomma, ecco. E poi i risultati erano dei risultati sia delle giovanili, e della prima squadra di grande rilievo, quindi per noi era anche un onore, specialmente quando si incominciò ad andare negli allievi. Ad esempio, io ho avuto la fortuna, l'onore di giocare con Sorbi, che poi è andata alla Roma, cioè gli allievi regionali erano allievi di rilevanti, insomma, ecco, di grande anche possibilità di imparare e di fare approfondimento. Anche perché poi a molti di questi ragazzi, io no, perché poi alla fine cambiai sport, o comunque anche era abbastanza in base a quello che volevo fare, dal punto di vista anche professionale non avevo il tempo, però molti hanno continuato e sono andati, hanno giocato per tanto tempo, insomma, ecco, ad esempio, so, Marco Romagnoli, il libero, ha giocato al Pian di Scop per tantissimi anni, Paolo Vaselli è arrivato con Serie C, se non sbaglio la San Giovannese, ecco, persone e un gruppo di ragazzi che hanno fatto prima di tutto amicizia, comunità, siamo rimasti tuttora, quando ci si vede, quando ci si trova in bicicletta poi qualche altro momento o allo stadio, perché poi alla fine ci si ritrova in tribuna allo stadio. Ad esempio alcuni sono andati anche in prova, fra cui anch'io, andai in prova al Torino, però naturalmente non mi presero, mentre ad esempio Riccardo Rossi, che è stato al Torino per diversi anni, anche se poi è tornato all'Evane, e l'attuale presidente, quindi Angiolino Livi, fu l'anno precedente e andò alla Juventus ad esempio, e poi insomma ancora scusate, a Torino anche lui andò, quando doveva andare alla Juventus si fece male perché col motorino ebbe un incidente, quindi però io ho avuto la possibilità di vederlo giocare, quindi era un panzer, insomma, i tedeschi in confronto a lui non sono niente, insomma, ecco, in Angiolino era davvero straordinario dal punto di vista della forza, della classe e anche della, come ora, della personalità per fare squadra, insomma, e per avere amore per il calcio e per tutto ciò che lo circondava, insomma, ecco. Ora a me viene sempre in mente quando sento queste storie appunto di anni fa, si giocava in piazza, c'è sempre questa idea un po' malinconica, no? Della vita di Montevarchio, della vita di città, o passatemi il termine di paese, perché probabilmente era più paese di quanto lo sia oggi. Certo, mi rincuora il fatto ad esempio che mentre stavo venendo qua in bicicletta in piazza Vittorio Veneto c'erano dei bambini, giocavano in piazza e mi hanno tirato anche una pallonata alla bicicletta, però... Ma insomma, guarda che noi si giocava ugualmente, perché poi alla fine ogni momento ha la sua... Noi si giocava in piazza, sia a volte in piazza Vittorio Veneto, anche perché il famoso Vigile Perissi, voi non l'avete conosciuto, ma io sì, insomma, che ci portava, era famoso allora, specialmente negli anni 70 e inizio anni 80, e che ci portava il pallone, andava arrivare il Perissi, si partiva la voce, oh c'è il Perissi, via di Orsa, ma... e si nascondeva poi, perché lui aveva, diciamo, era abbastanza vigile e preciso, insomma cercava di portarci via il pallone, specialmente in piazza della Repubblica, questo. Oppure quando quel pallone ad esempio passava motorini e andava nella strada, questo era, in uno stesso tempo era pericolo, perché però se era ragazzi, e quindi uno stava a guardare che il pallone non andasse nella strada, specialmente dietro il portiere, e gli altri facevano la partitella fra un paio, fra gli alberi, facevano la porta, oppure si metteva sassi per fare la porta e si giocava, ma come vedo anche ora gioco. No, ma infatti io dicevo questo mi rincuora, perché comunque questo significa che lo sport resta comunque anche tra i giovani d'oggi un qualcosa di affascinante, che crea socialità, certo, crea unione, anche malgrado quelle che sono state le evoluzioni o le involuzioni, dipende dai punti di vista, della società e della Montevarchi. Sì, sì, su questo è rimasto la stessa cosa. E io proprio a questo proposito, visto che tu sei stato anche primo cittadino, quindi hai il polso della situazione, ti chiedevo un raffronto tra quella che era la Montevarchi, proprio città, degli anni della tua infanzia, e la Montevarchi di oggi, o quantomeno la Montevarchi che hai ben conosciuto. Beh, da sindaco c'era meno macchine, quindi si poteva giocare anche, diciamo, nella strada, però gli anni 80, gli anni 70 e anni 80 è stato il momento nel quale le macchine hanno iniziato a circolare in maniera ampia. Però ad esempio noi si giocava in qualunque posto, io mi ricordo sempre, ogni tanto ci penso, si giocava nel campo da pallacanestro alla Gil, quindi mi ricordo a volte quando mi toccava di fare il portiere, ci si tuffava nel cemento, perché non so nemmeno definirlo, certi, eppure non ci si faceva niente. A ripensarci ora, che io appena sono andato all'inaugurazione della Gil 5 mesi fa, ho fatto una strusciata al ginocchio, sono stato 6 mesi, ho detto c'è il menisco, c'è i legamenti, mi saltava qualcosa, poi dopo 4 o 5 mesi ho visto che invece ad oggi fortunatamente riesco a riandare in bicicletta. Comunque mi fai tornare in mente la mia adolescenza, che era negli anni 90, e anche noi abbiamo fatto tantissime partite in quel famosissimo campetto che hai detto, di pallacanestro in cemento, a tuffarsi. Ma noi giocavamo lì perché nel campetto in terra c'erano quelli più grandi, e fino a che non finivano loro il nostro turno non iniziava mai. Anche se noi, come espediente, avevamo via Roma, noi giocavamo in via Roma prendendo le saracinesche una volta di quello. Ma una guarda, quello della saracinesca è un classico. Io ad esempio sono sempre abitato in via Burzagli 6, dietro dove c'è i resti o le bombole, quelle saracinesche lì è stato l'inizio. Il piede destro, io ad esempio l'ho allenato lì, perché io c'avevo la corte su via Burzagli 6, dietro c'è la corte il dottor Lucaccini, e lì c'era dove si entrava nella corte e le saracinesche dei resti lì. E per uno andava un porta alla saracinesca, e siccome la saracinesca è lunga e stretta, se lo metteva il 7 facevi gol, se no bene o male il portiere, e lì ad esempio tu ti alleni bene, perché se quando poi tu l'hai trovato la saracinesca sul 7, quando c'è la porta di 7 metri a tirare è una cosa, oppure la parte di 7 metri noi non si è mai vista, perché noi ci andavamo a giocare alla Gilles, c'erano le porticine un po' più piccole, poi quando tu sei un po' più grande hai fatto le allievi, allora sei andato diciamo a vedere una porta, e erano enormi, io me lo ricordo sempre, perché ad esempio l'attuale allenatore dei portieri, Luciano Dotti, era con me, mi ricordo ogni tanto le porte enormi, quando si giocava erano anche pericolose, perché insomma si faceva anche come si può dire, scemenza dal punto di vista, o la palla scappava, oppure insomma si pigliava qualche gol, perché le porte dello stadio sono davvero... A vederli di fuori sono piccoline, ma di dentro sono porte belle enormi, insomma, ecco, sia a pararle e nello stesso tempo quindi a tirarci dentro era anche più facile, ecco. Facciamo un salto avanti nel tempo rispetto agli anni 70, agli anni dell'adolescenza, della spensieratezza, andiamo negli anni 90, anni in cui il Montevarchi ha conosciuto tante belle soddisfazioni a livello calcistico, guidati da una presidenza eccezionale, ovvero quella di Losi e Farolfi. Io mi ricordo benissimo di averti visto praticamente ogni domenica per almeno 5, 6, 7 anni allo stadio in qualità di tifoso. Ovviamente io andavo in curva, tu magari eri in tribuna, però capitava, io mi ricordo la tua figura allo stadio in quegli anni. Da un punto di vista di tifoso, di quindi appassionato che segue la squadra, qual è stato il momento più toccante, quello in cui ti sei emozionato di più, hai esultato di più, hai forse addirittura perso il controllo o l'aplomb per una vittoria del Montevarchi? Ognuno ha la sua, diciamo, esperienza. Io ho avuto un periodo di alcuni anni per motivi di studio, per motivi che sono stato anche fuori Montevarchi, quindi essenzialmente per motivi anche professionali, che è la fine degli anni 90 in cui ci sono stato meno. Io quindi il ricordo, anche perché sarà stato, avevo la prima 500 e fu la partenza e poi lo spareggio a Pistoia con il 3-2, con il go a tempi di recupero, gli ultimi minuti, cioè quello fu un momento, come io se ricordo Italia-Brasile, ecco, ricordo lo spareggio, se non sbaglio, con la Massese, se non sbaglio, mi sembra a Pistoia, in cui... Quindi io, mi sembra che sia gli anni, metà degli anni 80, insomma, ecco. Perché si partì, mi ricordo, il tifo con le macchine prevalentemente. Io poi avevo la cinquecentina che aveva il carburatore con la gomma era collegata alla dove passava la benzina, mi la immetteva, e mi ricordo erano difettose, si staccava il tubo della benzina, e mi ricordo lì a metà si bloccò, comunque si sentì, ci si fermò, ci stava in piafoca il motore nella, no, dice, si perde la finale, si perde lo spareggio, non è possibile. Allora ogni 15.000 km ci si fermava per controllare se, e poi insomma si arrivò allo stadio naturalmente un'ora prima, ecco. L'altro la partita, mi ricordo c'era Bressani che aveva la forza, sembrava Gigi Riva con quel sinistro, era pazzesco, insomma. Quello, ecco, il primissimo è lo spareggio a Firenze, però io ancora ce l'ho più in mente perché ero più grandicello, insomma, ecco, lo spareggio di Pistoia fu davvero eccezionale. E un altro grande momento è la vittoria della Coppa Italia, che non si era mai vinta, e anche perché con gli amici si andò vicino a Venezia, non mi ricordo dove era. A Chioggia. Me lo diceva in questi giorni, chi me lo diceva anche, hanno messo delle foto, non sono riuscito a trovarle, in cui ad esempio c'avevo un cappello a messicano, dice, mi si vede insieme, ero insieme a Claudi, Massimo Claudi, suo fratello, l'altro Stefano, il barone Roberto, e ora fa l'infermiere piccolino. E insomma, si fece una macchinata, anzi un paio di macchinate, e si unì Venezia insieme a Chioggia. E, ecco, questa, anche perché credo Levarti è la prima volta che ha vinto la Coppa Italia, anche lì fu una bellissima partita. Mi ricordo giocava i Brilli, giocava, quindi anche, diciamo, ragazzi e persone che avevo anche conosciuto, perché poi alla fine i Brilli giocava nella Juniores e io facevo l'allievi, ecco, quindi erano anche ragazzi nel quale eravamo più a contatto, più vicini, di Montevarchi, mentre ecco, giocatori già fino mi ricordo Polvar, però erano per noi dei campioni, erano, ecco, ecco. Questo è il momento che ricordo con più, come si dice, con più partecipazione, ecco. Naturalmente le persone che avete detto, che avete inviato prima, quindi Farolfi, Losio, loro sono sempre stati presenti, e Montevarchi, la società è andata avanti anche grazie a loro, ecco, perché poi alla fine bisogna dire che c'era anche altre persone, ecco, che hanno, soprattutto le persone che non erano presidenti, non erano vicepresidenti, ma che hanno portato avanti la società, la segreteria, il rapporto con i genitori, quindi ecco, erano montevarchini persone che davano il loro contributo di volontariato dalla mattina alla sera, uguale al presidente, uguale anche all'amministratore, insomma. 1984, la prima Coppa Italia a livello nazionale del Montevarchi e finora l'unica. Ci auguriamo vivamente che questa emozione di vedere alzare una Coppa Nazionale tocchi anche a noi, anche perché, per dire, quell'anno fu vinto anche il campionato, ma insomma anche Francesco, come tanti altri ospiti prima, si ricordano più della Coppa che non del campionato. Certo, anche perché si trattava di una cosa, come è stato appena detto, insolita, differente, quindi sicuramente più particolare, tant'è che è rimasta l'unica. Però Francesco, andando avanti negli anni, poi tu hai assunto dei ruoli istituzionali, sei diventato primo cittadino di Montevarchi e più o meno, se non erro, nel periodo in cui appunto sei stato sindaco, c'è stata la radiazione dell'Aquila e di conseguenza l'arrivo di quella che noi abbiamo definito in queste puntate la rinascita con la nuova società. Qual è stato il tuo ruolo all'interno di questo traghettare l'Aquila, o quantomeno il Montevarchi, dall'essere il vecchio Montevarchi a diventare l'Aquila 1902? No, io ricordo benissimo che l'anno è il 2011. Il 2011 fu un anno tremendo dal punto di vista sia sociale, economico. Tenetevi presente, io mi ricordo, se arrivò a settembre c'era difficoltà a pagare gli stipendi in comune, perché ad esempio, se vi ricordate, l'anno di Monti, cioè il governo Berlusconi abbandona lo spread a 550, non arriva a finanziamenti, cioè fu un momento, ecco perché me lo ricordo così bene, e mi ricordo era un momento molto particolare, perché c'era questi personaggi che si avvicendavano e che venivano al comune a capire, a chiedere, a verificare, che volevano rilevare l'Aquila Calcio. E personaggi sostanzialmente abbastanza particolari, quindi non conosciuti, non di zona, stranamente anche perché, siccome un po' di esperienza all'interno del mondo del calcio io ce l'avevo, non si riusciva a capire, dico, qual era il loro interesse per venire a fare qualcosa in Montevarchi Calcio. Alcuni non riuscivano nemmeno a capire bene o a dire, perché mi ricorda, uno disse Montevarchesi, faceva le interviste, cioè erano anche persone naturalmente fuori dal settore, e poi anche molto particolari, perché ad esempio Montevarchi aveva con il comune dei debiti, aveva, nel senso, doveva pagare le offense, cioè, come qualunque società sostanzialmente. Mi ricordo un giorno, sempre fine dell'estate 2011, questo mi arrivò con una valigetta, ecco, doveva pagare credo 7-8 mila euro, con 7-8 mila euro una valigetta tutti in contanti, entrando nella stanza del sindaco, ero lì, mi fa, guarda, sono venuto perché io già intanto la valigetta ho tutti questi soldi in contanti, dici, ma questo è pazzo, dici dentro, ma poi se ci beccano qui con la valigetta, e che Dio, non si, no? Ma io dissi dentro, ma questo o è stupido o ha qualcosa, di particolare, non lo so. Quindi intanto vado a pagare, se deve pagare, va in tesoreria, questi soldi e li versa, cioè li porta il sindaco la valigetta in contanti. Quindi già mi impaurì anche personalmente, no? Però poi ebbe una deduzione dicendo: ma come fa questa a fare il presidente? Cioè, queste sono persone che bene o male vivrebbero in maniera alla giornata, perché cioè uno ti porta 7.000 euro contanti per poter pagare le hotel, se c'è qualcosa che non torna, no? Ecco, da lì venne fuori la riserva mentale e l'obiettivo, se con quei poteri uno poteva porre in essere come sindaco, era quello di far l'humus perché persone di posto riuscissero ad acquistare o cercare di dare il loro contributo per il Montevarchi, anche perché avevamo l'esperienza delle altre grandi società montevarchini, quindi della pallacanestro, della ginnastica, del podismo, dei ciclisti, che avevano e da tanti anni avevano raggiunto risultati eccezionali attraverso il loro volontariato. È una certa struttura che è quella di lanciare giovani, avere però un risultato a fine anno e essere persone del posto. Ci fu la sfortuna del fallimento, perché questo fu inaspettato. Io dalle notizie riuscii a acquisire, anche con il mio mestiere di avvocato, venne fuori che c'erano dei debiti di oltre 1 milione di euro, quindi voi capite, dedussi subito che era impossibile salvare Montevarchi. Chiunque fosse venuto, avesse acquisito, in ogni caso poi strada facendo si sarebbe trovato con cambiali, firme, impegni, con un debito di oltre 1 milione di euro, no, di più di 1,5 milioni di euro. Quindi il fallimento, poi venne il fallimento, non mi ricordo a istanza di chi, ed ecco che l'occasione fu propizia. Io su questo, nelle pochi anche rapporti che ebbi, il mio consiglio, perché naturalmente il sindaco non è che ha potere, però il mio consiglio fu quello di ripartire da zero, di ricostruire qualcosa di nuovo. Eravamo a novembre, fine novembre 2011, e parlando, si riuscì a parlare con dei giocatori, si riuscì a parlare con l'allenatore, che io devo anche ancora oggi ringraziare, perché l'allenatore accettò di rimanere, che era Antonio Arcadio, un grande sportivo, un grande uomo, una grande persona, accettò di rimanere insieme a una parte dei giocatori. E da lì poi partì la grande scommessa di incominciare a chiamare e parlare con una trentina di persone, chiamiamo di imprenditori, di persone che su Montevarchi potevano dare un contributo. L'idea fu quella di partire con una quota all'incirca, se non sbaglio, di massimo 3.000 euro. Si arrivò a quasi 30 persone e accettarono a dare un contributo, tutti uguali, perché ognuno aveva un voto, aveva una festa, e quindi su questo si partì con una nuova società, che poi era un'associazione sportiva, ripartendo dalla seconda categoria. Perché della seconda categoria? Perché anche qui bisogna ringraziare ancora alcuni degli attuali dirigenti, tra cui il dottor Currò e Romai Andrea, che ancora sono vicepresidente nel consiglio direttivo, perché anche l'altra società dilettantistica che faceva giovanili, squadre giovanili, accettò, dopo un rapporto non positivo fino allora, di coordinarsi, di unirsi e di andare verso questa obiettivo, diciamo, di una nuova società che poi, prendendo il nome dell'Audax, poi avesse, ecco, la gestione di tutto il calcio montevarchino. E quindi si costituì questa associazione, che per un anno e mezzo ebbi l'onore di rappresentare e essere presidente. Sono tuttora presidente onorario del Montevarchi Calcio, quindi su quello, diciamo, è rimasto, e mi ha permesso in quell'anno e mezzo anche di capire anche alcuni movimenti, alcuni budget all'interno del mondo del calcio, alcuni rapporti, perché mi ricordo il secondo anno si riuscì a portare il giocatore della Fiorentina, Riganò, mi ricordo, che per poco, sì, perché no, il secondo anno, il primo anno, a dicembre, perché dopo dicembre si cercò con Riganò di riuscire a vedere se pur essendo in classifica in seconda categoria abbastanza sul basso, cercare di vincere e di non perdere l'anno. Non ci si fece per poco, ma insomma, che si trovò, mi sembra, una grande Traiana, e qui Mauro Vannelli, grande presidentissimo, che tra l'altro è stato anche ospite ai nostri microfoni, Mauro Vannelli. Ci vince, perché la Traiana è sempre stata la nostra gatta da pelare, cioè, sempre ho perso, comunque fatto la Ferranovese, poi si riuscì sempre a Reganò a vincere, ma insomma all'ultimo minuto, insomma, ecco. Però iniziò un percorso che mi sembra di comprendere che la società ancora oggi mantiene, cioè quello di lanciare giovani, di intanto mantenere la struttura di rapporto sociale, comunitario fra Montevarchini, che pur ora, allora erano una trentina, ora sono molto meno, ma insomma sono una decina di persone molto affiatate che ad oggi hanno fatto un grande, non solo dei grandi campionati, ma hanno riportato il Montevarchi insomma in Serie D, dove io credo sia la sua categoria, soprattutto per lanciare i giovani. Poi se abbiamo la fortuna di avere un'annata positiva, credo che possiamo anche cercare di andare in serie superiore. Però ecco, l'elemento fondamentale è far quadrare i bilanci, far sì che i giovani vengano lanciati, perché l'obiettivo nello statuto sociale era questo, che poi è un'eredità morale che mi ha lasciato a me personalmente Lezio Losi, perché il Lezio, l'ultima cosa prima di morire, che mi disse: mi raccomando, facciamo sì che Montevarchi sia incentrata sul settore giovanile, che poi era anche lo spirito che la stessa aula, se gli stessi dirigenti, hanno sempre avuto e hanno sempre manifestato formalmente. Su questo, in ultimo, mi permetto di ricordare che qualche mese dopo ci fu anche la fortunata possibilità di concretizzare questo attraverso anche l'attuale formalizzazione, insomma, ecco, societaria del CSA, quella 1902, attraverso il compianto Vittorio Firli, che insomma nella sua grande magnanimità donò all'amministrazione, alla città, al comune, quindi il simbolo e tutto ciò che è il patrimonio a questo punto della città, insomma il CSA quella 1902, che ci ha permesso di andare avanti, perché ad esempio il fallimento a volte ha telefonato, ha detto, ci voleva impedire di permanere con la denominazione Aquila Montevarchi, ma con diciamo i documenti, gli atti e le donazioni di Vittorio, io ho potuto dire che CSA quella 1902 era molto prima di tutto ciò che era poi oggetto del fallimento, cioè i simboli e ciò che invece era fallito in Montevarchi Calcio, insomma, ecco. Per i nostri ascoltatori che non sono di Montevarchi, il CSA, quella rispetto al Montevarchi Calcio, il Montevarchi Calcio era la società di calcio che poi nel 2011 ha visto il fallimento. La CS Aquila era la primissima società sportiva di Montevarchi a livello ciclistico, di cui Vittorio Firli, come diceva appunto Francesco, aveva mantenuto in vita il titolo sportivo per tantissimi anni, e quindi è una storia non solo di passione, non solo di amore, ma è proprio una storia che ha fattivamente, ha praticamente permesso poi al Montevarchi in qualche modo di ritrovare un'identità storica anche nella sua nuova rinascita. Anche è... perché l'amministrazione ha sempre pagato, insieme a Vittorio Firli, l'iscrizione al CONI, e quindi il vero titolo che iniziò come società ciclistica, sostanzialmente poi come polisportiva, poi si è concretizzata, è un ramo è andato verso il Montevarchi Calcio e poi è fallito nel 2011, ma ecco, l'origine era determinata insomma da CSA quella 1902 sostanzialmente, ecco. Ma io, se posso permettere, se ti ricordi, sì, o se comunque c'eri nel mezzo, com'è andata effettivamente la cosa? Cioè, com'è che Vittorio Firli un giorno è venuto e ha detto: io ho questo titolo, utilizziamolo? No, Vittorio questo lo ha sempre mantenuto, e vi dicevo, almeno nella mia esperienza, dagli anni, quando io ho fatto anche il vice sindaco, quindi dagli anni 97, l'amministrazione tutti gli anni pagava l'iscrizione a Vittorio Firli e alla sua associazione, al CONI, e quindi si manteneva sempre questa, per motivi, perché prima di tutto perché era un valore culturale, un valore storico, in secondo luogo perché era una polisportiva, quindi uno, l'iscrizione era importante perché era un titolo di oltre 100 anni che era un'affiliazione per tanti sport sostanzialmente. Nel momento nel quale gli anni 2000 il Montevarchi ha incominciato, non diciamo a traballare, ma insomma si incominciava a sentire le voci, Vittorio ha sempre manifestato la voglia, la possibilità che se un giorno ce ne fosse stato bisogno, quello poteva essere un patrimonio della città. E lui ha voluto, prima di morire, insomma, ecco, donarlo. Io lascio le foto, non mi ricordo l'anno, ma insomma deve essere stato inizio 2012, di donarlo alla città, ed è all'ufficio sport in donazione. Infatti l'attuale CS Aquila Montevarchi Calcio gestisce i colori rosso-blu con un atto di comodato da parte dell'amministrazione comunale, perché il simbolo e tutti i titoli non sono della società ma sono dell'amministrazione comunale, perché se un giorno succedesse qualcosa quello è un patrimonio della città e rimarrà patrimonio della città. Questo è quello che Vittorio ha voluto e che io ad esempio da sindaco, anzi dal punto di vista anche da avvocato, credo sia il miglior modo perché venga tutelato, ed è il motivo per cui per un anno e mezzo ho assunto la presidenza del CS Aquila 1902, insomma. Abbiamo parlato di Serie C, abbiamo parlato di coppe vinte, di campionati vinti, di ricordi, però era un altro mondo, erano altri tempi dove per fare anche queste categorie non c'era bisogno di chissà cosa. Oggi invece le cose sono un po' diverse, quindi ad esempio un'eventuale promozione in Lega Pro creerebbe quantomeno dei terremoti logistici per cui le strutture andrebbero sistemate, andrebbero rese a norma, ma secondo le leggi di oggi non c'è niente di incredibilmente strano in questo. Oggi le leggi sono diverse rispetto a 30 anni fa, ma secondo te, per la tua esperienza e anche un po' per la tua, per il tuo auspicio, se Montevarchi riuscisse a trovare la forza di provare a fare il salto di categoria, ci sarebbero oggi i modi, i mezzi per poter adeguare appunto le strutture alle leggi di oggi, alle regole di oggi? Le due cose secondo me non devono essere disgiunte, perché allora intanto noi abbiamo, come in tutti i settori dell'amministrazione, delle difficoltà sempre maggiori dal punto di vista finanziario, perché le amministrazioni comunali hanno sempre meno fondi. Quindi noi in ogni caso dobbiamo implementare le strutture. Io dico non solo del calcio, perché ad esempio all'interno dello stadio vi sono anche l'utilizzazione da parte della podistica, e anche quella società ha una importanza nazionale per quanto riguarda la propria attività. C'è anche il ciclismo. Quindi con gradualità l'amministrazione dovrà cercare, da qui ai prossimi 15 anni, chiunque sia ad amministrare la città, implementare queste strutture. Allora, ora, essendo un consiglio comunale, la cosa che l'attuale amministrazione sta facendo, dovrà fare, è quella di mettere a regola, diciamo, con le nuove norme proprio, quindi avere anche tutto ciò che serve, i collaudi per quanto riguarda lo stadio comunale. Io spero che poi vada in porto e vada avanti l'idea, perché come con la piscina, l'idea che a suo tempo noi con la mia amministrazione avevamo iniziato era quella che io credo debba essere fatto un bando e debba essere lo stadio gestito da Montevarchi Calcio, con una progettualità e con la possibilità anche con gradualità, come è successo e succederà alla piscina, lì è un bando, una concessione di 20 anni, tutti gli anni qualcosina può essere implementato e può essere fatto all'interno dello stadio. Mi riferisco alla zona in cui si può mangiare, in cui gli sportivi si possano ritrovare, in cui si può fare la sala stampa, credo, si può ristrutturare parte delle tribune, ci si può fare negozi, cioè si può investire sullo stadio. Abbiamo, e lì è stata un'attività meritoria, quella di mantenere l'antistadio lì, perché è un elemento implementativo sulla zona. Naturalmente ora va trovato le risorse per ristrutturarlo, e la cosa anche lì ha bisogno di diverso tempo, perché credo con le finanze ci sono ora, un pochino alla volta, però piano un po' alla volta, anche quella è una grande obiettivo. Io credo che ad oggi è stata abbandonata, per me è un grande errore, l'ho detto sia al sindaco che alla società, che il progetto della cittadella dello sport su via Cantigiana, essendo in proprietà di un socio e di un amministratore del Montevarchi, quella parte di terreno che è sulla Cantigiana e l'altro in parte di un ex giocatore, quindi una famiglia storica, Montevarchi e la famiglia Di Mella, quindi io credo non ci dovrebbe essere problemi se parlandone trovare la modalità, perché anche quei terreni possono andare e possono essere in un modo o nell'altro in disponibilità del Montevarchi Calcio o dell'amministrazione comunale. Perché? Perché qui si progetta il Montevarchi e la cosa del futuro. Questa è sempre stata una mia idea. Io vedo l'amministrazione attuale abbandonata perché individuano e c'è dei problemi idraulici, urbanistici in quella zona, però naturalmente quando si progetta la città c'è sempre dei problemi urbanistici o idraulici o via dicendo. Quindi io credo che questo dovrebbe essere un altro elemento da tenere presente, perché ad esempio quell'area lì collegata ai Cappuccini, collegata alla vecchia strada romana, è un polmone secondo me fondamentale, perché lì tu colleghi la città, il parco dei Cappuccini, con questa nuova area sportiva e gli spogliatoi sono già presenti lì. La terza cosa, io mi auguro che l'amministrazione non abbandoni, siamo a mezzo a Levanella, il campo sportivo a Levanella, è diverso tempo, non si risente più niente, e credo che anche lì con circa 150-200 mila euro i lavori dovrebbero essere finiti, sia per dare a Levanella un campo sportivo dopo tanti e tanti anni, ma sia perché è un altro polmone importante di un'opera che deve essere finita e deve essere realizzata. Quindi le possibilità sono molte, e su questo io ho sempre sentito che la società e molti soci del Montevarchi Calcio sarebbero disponibili a investire anche personalmente. Naturalmente va trovato le modalità sia tecniche che giuridiche per far sì che tutto ciò vada a realizzazione. È difficile, perché effettivamente è un momento difficile, ma credo che se uno pensa da qui a 20 anni, perché bisogna pensare da qui a 20 anni, programmare da qui a 20 anni, queste strutture sportive possono essere strutture sia per il calcio, ma guardate anche per la podistica e per il ciclismo. E ad esempio in questa ottica, almeno in ciclismo, potrebbe essere trovato una modalità per dare una destinazione ad hoc, ad esempio a Levanella, quindi levarli dallo stadio, perché già sarebbe un elemento per dare maggiore spazio e maggiore potenzialità a loro, e nello stesso tempo non avere le biciclette che nel coordinamento con i podisti e con il Montevarchi Calcio trovano molte difficoltà. Bene, ma torniamo a parlare di calcio giocato e quindi di Montevarchi in campo. Tu, Francesco, come ci hai detto, solitamente guardi la partita dalla tribuna, storicamente probabilmente guardi la partita dalla tribuna, ma negli ultimi anni comunque ti abbiamo visto, ti è capitato anche di venire a vedere la partita dalla curva, comunque anche magari in trasferta in zone dove il tifo è più caloroso. Per te qual è il cambio di percezione tra vedere la partita appunto da distanza rispetto al tifo e invece vederla in mezzo, tra virgolette, alla bolgia? Allora, la tribuna coperta in genere io non ci vado, perché proprio non ci vedo. Molte volte anche da sindaco mi hanno sempre detto: ma devi venire, vince le sedie. A parte una volta sono andato con i derby, come ricordo c'era con il sindaco di San Giovanni, si è perso, quindi mi sembra c'era il Tarchi ancora, quindi per principio, ma poi per me è molto basso e quindi io non lo vedo bene. A me piace stare in piedi in cima a una delle due tribune laterali dove si tira, quindi in genere cambio la tribuna o all'università di là dove c'è quelli di grande valenza, dei grandi conoscitori di calcio, la zona dell'Oxford rossoblù per puntualizzare, oppure a secondo se si tira di qua vengo dalla parte di qua. Sì, molto spesso, anche perché io ho l'abbonamento in curva, quindi anche perché ho diversi amici che vengono in curva, e in curva io ci vedo bene, anche perché o sei dietro la porta e quindi bene o male vedi le azioni, oppure se ti metti alla parte là della curva vedi come tu fossi in gradinata sostanzialmente, quindi non è, specialmente poi quando c'è il sole si sta benissimo, ecco. Quindi in genere io fo metà e metà, perché un po' di là ad esempio fa freddo molte volte dal punto di vista anche della temperatura. Allora, detto questo, è uno spettacolo stare in curva, ecco, questo effettivamente va detto, insomma, ecco, specialmente anche perché poi soprattutto nel, perché ad esempio in casa sì, le ho viste quasi tutte, ma all'incirca le ho viste non quasi tutte, ma insomma molte anche fuori, ecco, anche negli anni scorsi, insomma, quando 70% di partite esterne ci sono andato, anche perché prendi la macchina e vai, quindi io ho delle ricordi, ad esempio, a parte a Cortona, insomma, quando si vinse, si andò di sopra, quindi, ma insomma, a Figline, oppure siamo andati fuori a mangiare qualcosa, oppure quando arrivai in Pulma, ora non mi ricordo nemmeno, ma insomma, un paesetto, arrivai in Pulma, non girava nemmeno, non mi ricordo ora, dove c'era, cioè è anche bello dal punto di vista folcloristico, insomma, quando in Monte Marchi si muove, no? Oppure andava a qualche campo, che quelli alla rete lì, si entrava in campo fra poco. E poi è bello anche vedere ormai delle personalità, insomma, ecco, perché in curva ci sono delle personalità che caratterizzano molte varche, persone poi tutte educate, alla fine sì, qualcuno boccia un po' più del, però alla fine insomma sono tutte persone che riescono a capire, ecco, anche i momenti, e soprattutto con grande grande passione, perché insomma c'è qualcuno che sta di spalle a bocciare tutta la partita, non vede nemmeno un'azione, quindi è davvero quella un'altra caratteristica importante che fa, che ti fa vivere quel momento, come si diceva all'inizio, anche come un momento di socialità, ecco, di comunità, cioè si ritrova a Montevarchi, si ritrova persone io ho visto crescere, che poi tu le trovi a vendere la ciccia dal macellaio, tu le trovi giovedì a dove va a prendere un pochino di carne, o tu le ritrovi al bar di Giglio e poi tu le vedi in tribuna, e sono le stesse persone ma anche con una fisionomia, una cultura, un modo di essere diverse da quando le vedi giovedì e da quando le vedi anche già con l'abbigliamento e con i capelli in un certo modo. Quindi è un momento di storia importante, insomma, ecco, di comunità che credo rimarrà per tutta la vita, perché poi alla fine, fino a quando non saremo in via Sugherella, perché prima o poi tutti saremo in via Sugherella, lì ci ricorderemo e vedremo queste persone in questo doppio momento, ecco, della vita quotidiana e poi della domenica, quando sei a un trasferto, tu sei invece su alberi liberi. Abbiamo piacevolmente volato alla ricerca della Montevarchinità anche stasera con questo ospite d'eccezione, Francesco Maria Grasso, talmente piacevolmente che siamo arrivati al termine della puntata senza praticamente nemmeno accorgersene. Siamo passati dagli anni 70, dai ricordi di bambino, fino all'attualità e fino anche al futuro fra 20 anni. È stato veramente un piacere. Io ringrazio calorosamente prima di tutto i nostri ascoltatori di Radio Big World, ringrazio il mio compagno di volo alla ricerca della Montevarchinità, ovvero Julian Carax. E io ringrazio Francesco Maria Grasso per essere stato nostro ospite, ringrazio il nostro regista Gabriele Salvadores, che adesso se ne potrà tornare tranquillamente a casa, ma comunque ci ha regalato la sua arte in questa puntata. E niente, Francesco, un saluto e poi diamo la buonanotte ai nostri ascoltatori. Buona serata a tutti. Grazie ancora da parte mia e grazie anche a Stefano Neri che fino ad ora, come sempre, ci offre gli spazi all'interno della Galleria San Lorenzo in pieno centro storico di Montevarchi, dove l'Aquila prende il volo dal nostro punto di vista. Grazie a tutti. Comunque, Mediterraneo e Salvatore. Mediterraneo. Vai. È un misto di storie di narrativa, ma anche di nostalgia. Ben, chi c'è? C'è ancora il rimbombo della volta, guarda. E che? Quella volta. Oh, da un tuffo. Sì. Non me ne ero nemmeno accorto. Io non mi accorgo più di nulla. Prima parlavo da me, mi sa, e mi ha fermato Rosatini e mi fa, dice, ma che fa, parli da solo? Ho detto, no. Cioè, ho visto parlando da solo, io sono andato, mi sono parlato, ho detto, un buon cura. Non abbiamo litigato. Minchia. Cioè. Vai. 1, 2, 3. Salvatores con la T. Io ho detto Salvatore. Io sono sempre stato convinto fosse Salvatore. No, con la fine. È vero o no? Con la fine. Sì, davvero. Ma lei mi ha pestato. Ma io da te lo giuro su Dio, ma da. No, parto col nuovo. Io me lo sbaglio, convinzi. Infatti voglio dire, può tornarsene a Livorno, poi te lo cazzo, no? Convinzi. È vero che siete stati ragazzi con Sergio Avoscan. Porca miseria, Avoscan. Davos Khan è favoloso, quando diceva il cavallo è stanco, ha bisogno di piada. Quando lui comincia, il cavallo è stanco, ha bisogno in treno, quando fa tornare a Firenze, quando lo sentite, allora vuol dire che era andato. Perché anche lui è venuto, lui è un 59, credo. Lui è venuto, sì, da un Monte Varchi. Quando è stanca, ha bisogno di piano. quando dà di fuori, vuol dire dai di mano. E che voleva dire sostanzialmente? Che non ne può più schiantare. Lui invece di dire sono schiantato, dice cavallo è stanca, ma poi lui me ne ha ripetuta. Il cavallo è stanca, un mantra. Grande Sergio.